languide teste e languidi capelli tubavano mentre desse due teste, si turbava l'aria sfacendosi la carne nei suoi domini. Teche parendo entrò la vitrea stanza senza cristalli, di pareti curve, concave molto. Mentre molto convesse, ridevano le teste e nelle teste gli occhi.